Siete in diretta con Jazz Live che parte puntuale o quasi 11:31 minuti di questo venerdì 19 aprile, al microfono in regia la voce di William Piana per l'Osservatorio del Jazz, che oltre che Ferrara vi porterà nella vicina San Lazzaro per il Paradiso e anche nel centro della nostra città con il Camera Jazz. Quindi iniziamo il nostro percorso in una giornata di sole, seppur con contrappunto nuvoloso di questa primavera che tarda un po' ad esplodere, oppure se esplode lo fa in maniera esagerata. Insomma, la playlist di oggi sarà variegata come di consueto e inizia con un ascoltati per voi. Beh, non è esatto, ascoltati e visti per voi. Sto parlando di Time in Jazz, il docufilm per Paolo Fresu portato da tre registi, di cui poi troveremo presentazione in questa anticipazione che vorrei portare per la proiezione che si è tenuta a Lumière. Un docufilm, oltre che di emozione, di grande qualità musicale per un laboratorio musicale che da 35 anni porta, oltre che note, anche emozioni veramente molto intense fra sonorità, particolarità estetiche, incontri, dibattiti e non solo, come vi ho detto, dalla musica alla poesia, alla letteratura, al teatro, un festival e una rassegna che da 35 anni in crescita, con la direzione artistica di Paolo Fresu, talentuoso trombettista e instancabile lavoratore per quanto riguarda la diffusione culturale, ha dato un motivo ulteriore per arrivare anche a una raccolta visiva. Ho assistito alla proiezione che doveva essere giovedì 11 aprile, purtroppo aderito allo sciopero la Cineteca per il disastro a proposito di tragedie e crimini sul lavoro per quello che è capitato a Suviana, è stato ripreso mercoledì 17 aprile, è stata una proiezione che mi ha incantato e, come vi ho detto, per i diversi motivi e le qualità che ho elencato in precedenza, oltretutto il ritrovare amiche e amici in Cineteca all'insegna della buona musica. Buona musica in un rapporto con il jazz che diventa qualcosa che veramente rompe ogni steccato, oltre che il territorio che, diciamo, non è che abbia un'attinenza particolare con il jazz, ma in realtà ce l'ha, perché diventa incontro, perché diventa diffusione, perché diventa tutto e il contrario di tutto, perché in un paesaggio particolare le sonorità particolari intersezionate da tutte le parti del mondo aggiungono veramente una colonna sonora naturale molto suggestiva. Ho portato a tale proposito un musicista che apre quella playlist all'interno di Time in Jazz Berchidda. Lui risponde a nome di Nils Landgren, è un musicista al trombone, un musicista svedese, oltre che molto talentuoso per quanto riguarda la scrittura funk and groove, anche per un aspetto evocativo. Qui infatti lo troviamo nel Duomo di Gotland insieme a Thomas Tanko e una formazione di musicisti scandinavi di grande pregio. Questo disco, uscito per la ACT Record, riporta un po', se vogliamo, anche l'aspetto evocativo della stessa Berchidda, che annulla completamente gli spazi all'insegna della buona musica, della curiosità, della voglia di stare assieme. Ci saranno altre programmazioni, da quello che ho capito la prossima presentazione, la prossima proiezione per meglio dire, sarà sempre in Cineteca il 13 maggio, chiaramente nell'avvicinarsi all'evento daremo presentazione e diffusione di un contenuto veramente molto molto bello, suggestivo, curato. Pensate, 1500 ore di concerti e tante interviste che portano a corredo a queste note un motivo in più di emozione. Intanto ascoltiamo da Gotland Nils Landgren. Perché lui? Perché appena arrivato a casa, ovviamente, ho voluto ritrovare le sue note dopo averlo visto nella proiezione dedicata a Berchidda. Nils Landgren. E per annullare le distanze, la musica, appena ho visto l'apertura di Rassegna per Berchidda con questo trombonista svedese Nils Landgren, ho voluto subito ritrovare i lavori per la ACT che sono riuscito ad avere, a prendere una label molto interessante per queste note e per questi suoni. Torniamo alla proiezione, però come ho detto ritornerà, sarà il 13 maggio, ma come ho detto ne daremo notizia o dal Breakfast Club o dal Jazz Live. Comunque i tre registi, Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi, con il quale abbiamo avuto presentazione telefonica del lavoro, Time in Jazz, Berchidda, 35 anni, 1500 ore di concerti. Adesso mi sono soffermato sull'apertura con Nils Landgren, però ovviamente oltre che Paolo Fresu abbiamo in questa manifestazione di rassegna estesissima nomi tra i più talentuosi, da Omar Sosa, pianista afro-cubano, Roachia Traoré, voce dall'Africa, Nils Landgren, musicista scandinavo, alcuni che più non sono nella dimensione ma sono altrove e continueranno a portare ispirazione, come di recente la scomparsa di Carla Bley, anche lei presente con Paolo Fresu per la rassegna di Berchidda ovviamente nelle edizioni passate, il grande Ornette Coleman, The Art Ensemble of Chicago, insomma potrei citarli a menadita o a memoria, veramente tantissime e tantissimi. È una proiezione, un docufilm, come ho detto, che mi ha entusiasmato anche per la situazione di aggregazione e per quel lavoro di riportare nel jazz un aspetto sconfinato e veramente di rottura di ogni confine. L'amore per il territorio è un ingrediente fondamentale per quanto riguarda il lavoro di Fresu. L'amore per il territorio, per le proprie origini e come vengono poi nella passione, nella costruzione del lavoro, quello che sarà poi il lavoro di Paolo Fresu di musicista, con grande impegno anche tradotto nella diffusione culturale. Ribadisco che il 13 maggio sarà nuovamente in proiezione e quindi avremo modo, avrete modo, io stesso vorrei rivederlo, per dire. Ecco qui il paragrafo d'apertura del Jazz Live, che oltre a essere ascoltati per voi, in questo caso è stato anche visto per voi. Cominciamo con la rassegna estense. La rassegna estense in partenza per questo venerdì 19 aprile vede The Tia Fuller Quartet. Tia Fuller alla voce e al sax contralto. Un po' di musica, poi rientriamo ufficialmente per la presentazione al Jazz Live. I'm all for you. Torrione Jazz Club di Ferrara, questa sera, venerdì 19 aprile, dalle 21.30, Tia Fuller Quartet, Tia Fuller che stiamo ascoltando alla voce, ma anche al sax contralto, come prima ne ha portato un esempio nell'assolo di Corredo, alla formazione che vede Roberto Tarenzi al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Sassofonista, compositrice, nasce a Denver in Colorado, si forma ad Atlanta in Georgia, inizia la sua attività professionale nelle band di Nancy Wilson, Ralph Peterson, successivamente collabora anche con Esperanza Spalding, contrabbassista molto talentuosa, ha ricevuto numerosi premi, riconoscimenti, Jazz Time tra quelli riportati come quello di Downbeat, ed è un'affermazione nell'ambito di musicista jazz con ampia possibilità e visibilità, diventando sassofonista della band interamente femminile, pensate, di Beyoncé. Presenza scenica, verve, coinvolgimento divengono ispirazione per il personaggio di Dorothea Williams nel film Disney Pixar Soul, e in questa tournée è affiancata da una delle più solide sezioni ritmiche. Presenta al pubblico il nuovo album Diamond Cut, candidato ai Grammy Award. Il titolo si ispira al processo, ovviamente, di lavorazione dei diamanti, nella proporzione, nell'equilibrio che permettono agli stessi di riflettere la massima quantità di luce, la prospettiva che trova diretta correlazione con l'approccio delle sue esibizioni musicali. Qua ne abbiamo ascoltato un'interpretazione, anzi ancora la stiamo ascoltando, dallo standard Body and Soul. Mainstream jazz di classe questa sera dalle 21.30 con Tia Fuller Quartet. Sabato ovviamente 20 aprile alle 21.30, Tobias Meinhardt Quartet, pluripremiato saxofonista, filo conduttore evidentemente del weekend, anzi dell'inizio e del sabato. Domenica non vi sarà il concerto per completare il terzetto del Torrione, avremo venerdì 19 e sabato 20, e su questi ci concentriamo. Come ho detto, Tobias Meinhardt, il pluripremiato sassofonista, compositore di Brooklyn, New York, è nato in una piccola città della Baviera rurale, quindi un incontro tra la Germania. Negli ultimi 15 anni si è conquistato un posto di rilievo nella scena jazz internazionale, si è esibito regolarmente nei più prestigiosi jazz club di New York e in numerosi tour internazionali. È stato nominato per un Echo Award, selezionato come astro nascente al sassofono nel Downbeat, ha vinto diversi prestigiosi premi e il Downbeat Magazine ha inserito il suo ultimo album The Painter tra i migliori album dal 2022. È un disco già dal titolo, anche in questo caso prima abbiamo Diamanti, ora Opere d'Arte. I suoi brani alternano la forza espressiva di Jackson Pollock ai colori tenui di Monet in un flusso sonoro evocativo proprio come in un dipinto. Sarà un ottimo consiglio per la rubrica in mostra, quindi, al quale ai grandi artisti abbiniamo anche grande sonorità. Ascoltiamo questo brano che ho selezionato, Sunset Park, per quanto riguarda le sonorità di Tobias Meinhardt con il quartetto che vi ho presentato, anzi non vi ho ancora presentato, ve lo presento ora. Eden Ladin al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso, J.K. Kim alla batteria. A tra poco, buon ascolto, Sunset Park. Mm-hmm. Tobias Maynard con il suo quartetto, lui al sax tenore, in una formazione che prevede Dan Ladin al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso, J.K. Kim alla batteria per la giornata di domani alle ore 21.30 al Torrione. The Painter, il titolo del lavoro, il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato Sunset Park. In effetti questo artista di arte figurativa in musica rende l'idea cromatica e tonale con la forza, come è stato definito, di un Pollock, che allo stesso tempo una tinta impressionista alla... Stiamo sparando molto in alto alla Monet, però molte volte il confronto, come ben sapete anche in mostra, con la colonna sonora in jazz riporta grandi artisti a grandi musicisti. Del resto ci sono tante parole, no, che ricordano, come ho citato in precedenza, il rapporto tra arte figurativa e jazz, l'aspetto cromatico, il tonale, diverse parole, la scala, insomma, che sono poi a sua volta riportate anche nell'arte, a sua volta nella musica, nel jazz. Concerti, quello di questa sera con Tia Fuller al contralto, quello di domani con il tenore di Tobias Maynard, che hanno un filo conduttore, quello di un aspetto mainstream ma molto raffinato, una rappresentazione di arte figurativa, come ho proposto nel brano che abbiamo appena ascoltato, di Tobias Maynard, tedesco e poi newyorkese di adozione. E la partenza di questa sera con Tia Fuller invece col titolo di un taglio di diamante per lo splendore, l'aspetto cristallino della voce e anche l'espressione al sax contralto. L'esperienza con Esperanza Spalding per questo concerto e per quello che sarà anche domani, in una coppia di sonorità che andranno corredate con il mio personalissimo commento. Ho voluto portare un musicista, un saxofonista. Sapete che ogni tanto riporto dei dischi anche per arricchire la playlist del Jazz Live. How Deep Is the Ocean ci accompagnerà la pubblicità. Lui è Ben Webster, sax tenore, con questa modalità di suono soffiato molto particolare, molto intenso. Ci accompagnerà agli spot e poi si rientra per la seconda parte di Jazz Live. Ecco, sentite qua, è riconoscibilissimo Ben Webster, e parleremo del Paradiso Jazz e di quello che sarà questa sera invece al Camera Jazz. Un buon ascolto, a tra poco con Jazz Live di Radio Città Fujiko. nuovo in diretta, seconda parte di Jazz Live. Ci avviciniamo alla nostra città, anzi andiamo direttamente nel cuore della nostra città. Prima due parole su questo disco che già ho presentato al Breakfast Club. Aesthetics, dal sestetto di George Russell, grande compositore, musicista che è sempre stato dietro alle quinte, ma che ha saputo portare un arrangiamento e una produzione, oltretutto un accompagnamento dei musicisti del calibro di Eric Dolphy e a tanti altri, come in questo caso al bassista Steven Swallow, all'interno del lavoro Aesthetics, un disco stupendo. Qui stiamo ascoltando, perché parleremo anche di aspetti letterari con la prossima intervista, il brano dal titolo L'Idiot, che dà un po' un'idea dostoevskiana per quanto riguarda il grande capolavoro del maestro russo. Come vi ho detto, la capacità di George Russell di strutturare il jazz in maniera modale è in questo lavoro un esempio, oltre che colto e intellettuale, anche di grande gusto. Il Breakfast Club ha visto nella sua colonna sonora una interpretazione riportata tra Eric Dolphy e lo stesso George Russell, aggiungo Don Ellis alla tromba, del capolavoro Around Midnight di Thelonious Monk. In questo caso stiamo ascoltando un altro brano, sempre ripreso dal disco Aesthetics. Camera Jazz nel cuore della nostra città questa sera, vediamo protagonista, voce e chitarra, Daniela Firpo, che già abbiamo conosciuto, lei di stanza ferrarese, però ovviamente nella vicina Bologna, arriva per portare con una formazione che andrò a presentare queste sonorità letterarie. Lei stessa darà anticipazione di contenuto per quanto riguarda il concerto. La settimana scorsa sono riuscito a contattare Daniela, per cui parleremo anche di incontri tra musica e letteratura. Lei, cantante brasiliana con una provenienza ben specifica di cui ci parlerà, sarà accompagnata da Daniele Santimone alla chitarra, Stefano Dalla Porta al contrabbasso e Roberto Red Rossi alla batteria. Troviamo questa formazione nel lavoro che, appunto, come vi ho detto, al Camera Jazz da questa sera alle ore 22, ingresso ore 21:15. Daniela Firpo, Africa Quartet. Daniela, che seguo, che è una delle interpreti e cantautrici brasiliane ormai in Italia da tempo, che seguo con più attenzione, ha in una struttura musicale quanto mai poetica la capacità colta di riuscire a trasmettere nell'emozione anche quello che è il calore e oltretutto la tecnica, non solo canora ma anche nella struttura per la musica e le sonorità, come ad esempio in questo lavoro verrà riportato. Come ho detto, sono riuscito a contattare Daniela, sentiamo le sue parole per anticipare il concerto di questa sera al Camera Jazz, che quindi diventa una data imminente per il concerto venerdì 19, Daniela Firpo a Bologna con Camera Jazz, per un appuntamento anche letterario di cui a breve qui con noi Daniela, alla quale do il buongiorno. Bentornata Daniela. Buongiorno William, sempre un piacere le nostre chiacchierate. Sì, anche perché mettiamo insieme diverse passioni, la storia, lo spazio territoriale, la musica e una letteratura della quale hai trovato motivo di narrazione musicale. Tra tutte queste cose ci puoi raccontare qualcosa di più in sintesi, Daniela? Certo, ho iniziato a leggere questo libro che si chiama Mar Morto, che è un classico della letteratura di Jorge Amado, tra l'altro è uno dei suoi primi libri, è scritto nel 1936, che racconta un po' questa atmosfera e questa vita nel bene e nel male, con le sue difficoltà legate anche a un'epoca in cui lavorare nel porto di Bahia era in un ambiente dove non esistevano ancora diciamo le leggi sociali, non si era sviluppata ancora questa coscienza dei diritti, quindi questi barcaioli, questi che noi chiamiamo marujos, marinheiros, vivevano una vita un po' per scelta, perché avevano questo spirito avventuriero, preferivano anche vivere una vita piena di sorprese invece di andare a vivere nella città alta, no? di Bahia de Salvador, che è divisa tra città alta e città bassa, perché avevano questo legame molto molto forte con il mare. Quando ho letto questo libro un anno fa, subito mentre leggevo comparivano musiche, canzoni, melodie, poesie. È un libro estremamente, che ha una lettura estremamente musicale. E mi è venuta questa idea, perché non fare canzoni dedicate a un tema che tanto mi affascina, che appartiene comunque alla mia vita, perché sono una baiana cresciuta anche in questi ambienti, e raccontare di questa cultura dove c'è... sono tanti ingredienti bellissimi, interessanti a livello anche dell'immaginario, di questa cultura legata anche alla superstizione, alla religione afro-brasiliana, al contesto, diciamo, della mescolanza di razze, che è molto presente soprattutto, no, lì a Bahia. Quindi io ho proposto questa idea ai musicisti, che sono Roberto Rossi, Daniele Santimone, Tiziano Negrello, e loro hanno amato queste idee, che sono, sai, questi musicisti italiani estremamente appassionati di questo mondo, e abbiamo iniziato a fare un progetto su questo concetto qua. E sarà in concerto quel venerdì 19 aprile, Camera Jazz. Ascolta Daniela, io ti chiedevo, vi è anche un work in progress per quanto riguarda l'uscita di un disco? Esatto, in questo caso il progetto è iniziato prima del disco. Mi piace anche molto questa cosa, perché è un processo molto naturale, che prima nasce l'idea, nasce il live, nasce la voglia di trovarsi, di costruire degli arrangiamenti, delle atmosfere, e come conseguenza il disco, che abbiamo già iniziato a fare delle prove, a organizzare più, no, minuziosamente. Primo concerto su questo progetto, che si chiama Itaparica, è successo a dicembre, prima di Natale, il 23 dicembre. Poi dopo sono andata in Brasile, sono stata lì fino a febbraio, e poi dopo adesso facciamo primo concerto a Bologna, diciamo. Bologna non siamo mai state con questo progetto. Itaparica è il nome di questa isola molto conosciuta lì in Brasile, a Bahia, no, soprattutto, dove accadono queste storie di Mar Morto, del libro Jorge Amado. Coinvolge molte storie legate all'isola di Itaparica, e che tra l'altro è l'isola dove sono cresciuta, quindi una serie di ingredienti che mi rendono molto felice di mettere emozione insieme tutte tanta. Queste storie. Sì. Ci credo. Allora, appuntamento al Camera Jazz per venerdì 19 aprile. Grazie Daniela, ti mando un caloroso abbraccio, poi magari ci incrociamo nel club Il Camera di Bologna, ok? Grazie di cuore. Perfetto, William, è stato un piacere, grazie mille, vi aspetto tutti, numerosi. Vamos curar bem, vamos curar sem, vamos clarear. Vamos curar bem, vamos curar sem, vamos clarear. Vem lavar a alma, vem limpar a casa, vem perfumar o coração. Fechar as dores, vai sarar as mágoas, vai perfumar o coração. Vamos curar bem, vamos curar bem, vamos clarear. Vamos curar bem, vamos curar bem. Vamos curar bem, vamos curar bem, vamos clarear. Lembra daquele riso feliz de criança, da esperança que se perdeu, do vento que canta nas águas, do sol laranja, que se esconde nos braços da noite que se arranja, chamando as estrelas pra brincar. Stasera 21:15 l'ingresso, alle 22 ufficialmente il concerto di Daniella Firpo, dal quale abbiamo ascoltato Cura per il lavoro di Ita Parica Quartet, Camera Jazz a Bologna, questa sera nel nostro Jazz Live. Beh, intensità, un aspetto poetico letterario e non solo grandi emozioni, abbiamo parlato di territorio, anche in questo caso viene evidenziato con grandissimo amore e ispirazione. Il Brasile è un subcontinente, lei proviene dalla Bahia, baiana, quindi con una attenzione particolare nello stato di Bahia, da quello che mi è stato raccontato, anche non sono mai stato purtroppo, mea culpa, mi cospargo il capo di cenere, anche una grande attenzione per la cucina, non solo per la musica. Veramente un subcontinente con diverse tinte, e quindi dal percorso che stiamo facendo arriviamo alla conclusione con il Paradiso Jazz e diamo l'avvio al lunedì. È la penultima serata per quanto riguarda la rassegna 2024. Grazie a Marco Coppi, grazie all'organizzazione di Paradiso Jazz, troviamo un contrabbassista, Christian McBride, contrabbassista che ha percorso, e non solo per le collaborazioni ma anche per il lavoro da lui portato in ambito di un post-bop, una struttura di modern jazz con delle attinenze forti per le origini ma anche un dialogo costante col modern jazz. Questo è il suo secondo disco, pensate, parlavo di collaborazioni, qua lo troviamo con Kenny Barron, con Gary Bartz, con Chick Corea, Jack DeJohnette, Kenny Garrett, insomma, intanto che ascoltiamo un po' di note da Christian McBride, Youthful Bliss, il brano che ho selezionato, rientriamo e darò qualche indicazione di percorso per il lunedì al Paradiso Jazz. A proposito di enogastronomia, ricordo che al Paradiso Jazz la possibilità per la cena alle 19:30 all'inizio in sala 77, una cena legata alla tradizione. Vi posso assicurare che in questo caso sono molto informato su tutto quello che può essere un menù che prevede tigelle crescentine con tutto l'accompagnamento tale per accompagnare e vivere una cena e un convivio pre-concerto assolutamente gustoso, e oltretutto i primi vicini a noi che conosciamo dai tortelloni, per farne un esempio, ma stiamo parlando di musica, visto l'orario qualche divagazione ci può stare, no? Me la perdonate? Dai, sì. Christian McBride al basso, Nicole Glover al sax tenore, Ellie Perlman alla chitarra, Mike King alle tastiere, Savannah Harris alla batteria, una presenza femminile, anzi diverse presenze femminili per la rassegna del Paradiso Jazz alle 21.30, ufficialmente sarà l'inizio per il dopo cena al Paradiso Jazz. Tenere divise le due situazioni, tra l'altro, è stata una scelta illuminata da Marco Coppi, che saluto e ringrazio, e per questa penultimo appuntamento, per questa penultima serata, come vi ho già detto, la possibilità di ascoltare questo musicista dalle capacità da composizione legate a una tradizione di bop visto in maniera moderna e anche assolutamente gustosa. Non è che sto parlando ancora delle crescentine, in questo caso sto parlando di musica alquanto gustosa per quello che è un aspetto di crescita in ambito jazzistico. Christian McBride al Paradiso Jazz per il lunedì, dopo un weekend che ci attende, che ovviamente vi auguro bellissimo. Quindi un bel modo per iniziare la settimana, no? Io vi ringrazio per l'attenzione, per aver accompagnato anche me al pranzo per oggi, vigilia di weekend di venerdì 19 aprile. Ci risentiamo poi lunedì mattina con il Breakfast Club, quindi riprendiamo con la prima colazione in diretta. Vedete come tutto è scandito. Intanto, come ho detto, ci aspetta il weekend, è il terzo per il mese di aprile. Lo auguro bellissimo, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, anche se questa primavera è un po' così, un po' azzoppata, se mi permettete il termine. Buon ascolto sui 103.1, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana e una buona giornata, oltre che un buonissimo weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti.